in primo piano. E cosa c'è? Ovviamente le aperture sono tutte dedicate agli sviluppi dell'inchiesta sulle telecomunicazioni. Telecomunicazioni scaglia, si difende. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, vale a dire l'ex numero uno di Fastweb che oggi torna in Italia, era all'estero per lavoro. Riciclaggio, rientra scaglia anche per la stampa. Il Corriere della Sera, telefonia, politici nelle carte. Per Repubblica, l'andrangheta in Parlamento, foto incastra il senatore del PDL, il senatore Di Girolamo, che è al centro dal punto di vista politico di questa inchiesta. Poi c'è chi si sbizzarrisce, politici schiavi dei mafiosi, questo per il Fatto. I paladini del bene, sapete che ieri Berlusconi ha lanciato questa idea, noi siamo i paladini, abbiamo i paladini del bene contro le forze del male, e l'Unità mette la foto di Di Girolamo, il senatore, con Rocco Pugliese, considerato un boss dell'andrangheta, i paladini del bene, proprio gioca su questo l'Unità. Berlusconi ribalta il PDL per il Giornale e Silvio fonda Forza Silvio per Libero, dunque i due giornali di centrodestra si orientano sulla svolta politica all'interno del PDL, ma vedremo se c'è tempo anche altre aperture, insomma gli sviluppi di questa inchiesta. Nessuna fuga, torno in Italia, oggi rientra scaglia con un aereo privato, fa sapere il Sole 24 Ore, vale a dire l'ex numero uno di Fastweb al centro di questa mega inchiesta. Vi preannuncio, come abbiamo già sentito, che alle ore 9 Oscar Giannino ospiterà qui nei nostri studi di Milano l'amministratore delegato numero uno di Fastweb attuale, vale a dire Stefano Parisi, che già ieri si è difeso in una conferenza stampa, oggi il Sole 24 Ore ribadisce: noi vittime di mele marce, l'azienda è sana, ma comunque vi rinvio alle 9 per tutte le domande anche e tutti gli approfondimenti del caso su questa inchiesta. Intanto a pagina 2 del Sole 24 Ore viene svelato come, secondo l'accusa, funzionava il sistema. Londra, Italia, Panama, così funzionava il triangolo delle chat. Tutto inizia da una mail, scrive Moria Longo, una mail del 2005. Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi. Questa storia della qualità non è più tollerabile. È impensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto che ci mancano oltre 10 milioni di euro di ricavi netti da fare da qui alla fine dell'anno. È da questa mail, 2 agosto del 2005, Roma invasa dai turisti. A numerosi colleghi arriva una mail, a numerosi colleghi di Telecom Italia Sparkle, una mail per spronarli a lavorare di più, per convincerli a puntare sui risultati. Servono appunto 10 milioni di euro di ricavi per rispettare le tabelle di marcia. E che succede nei successivi 5 mesi prima della fine dell'anno? Che i ricavi sono appunto, con la società inglese Acumen Ltd, proprio di 10 milioni di euro di fatturato. Nel 2005 nessuno fece caso alla coincidenza, ma 5 anni dopo la Procura di Roma ha svelato che proprio questa società inglese Acumen era al centro di una delle frodi più colossali d'Italia. E da qui parte questo viaggio del Sole 24 Ore, un'intera pagina, appunto, che da Panama, Londra e Italia ovviamente ricostruisce quello che secondo l'accusa è il cuore di questa mega frode. Ovviamente non posso leggervelo, ma è tutto approfondito, anche quasi con un intreccio alla stile James Bond, molto molto interessante da leggere per capire su cosa si fondano le carte dell'accusa nei confronti di questa presunta mega frode fiscale, che vede al centro appunto, come detto, Fastweb, ma anche Telecom Sparkle, tanto che, scrive sempre il Sole 24 Ore a pagina 4, il caso Sparkle esplode in Telecom, Telecom rinvia il bilancio. Il gruppo guidato oggi da Franco Bernabè ha deciso infatti di rinviare al 25 marzo l'approvazione del bilancio 2009, dopo che c'è stato ieri il sequestro operato dall'autorità giudiziaria di 300 milioni tra crediti e disponibilità liquide della controllata coinvolta nella maxi frode. Vicende che risalgono agli anni 2005-2006, ma che inevitabilmente, insomma, si riverberano su quella che è l'attuale assetto societario, e dunque ecco il rinvio del bilancio come primo riflesso, insomma, strategico sulla sull'azienda di telecomunicazioni. Oh, questo è per tutto quello che riguarda l'aspetto telecomunicazioni, ma come detto alle 9 poi con il numero 1 di Fastweb a Parisi si approfondirà la questione. C'è poi tutto l'aspetto politico. Il centro delle critiche è su questo senatore del PDL, Di Girolamo, del quale sono spuntate ieri le foto pubblicate dall'Espresso, riprese da tutti i giornali, foto che lo ritraggono a fianco a Rocco, a Franco Pugliese. Franco Pugliese, considerato un uomo dell''ndrangheta, pare anche che l'atteggiamento politico sia quello un po' di scaricare Di Girolamo. Palazzo Madama cade dalle nuvole, leggo a pagina 3 della Stampa, da Gasparri in giù, in pochi conoscono Di Girolamo. Qualcuno all'interno di AN dice anche: pensavamo che perdesse, ci stupì con i suoi voti. E sentite per esempio cosa dice Gianfranco Fini. Gianfranco Fini, in alcuni virgolettati di Francesco Verderami, sul Corriere della Sera: se fossi un senatore voterei per il suo arresto. Ombre infamanti, voterei per l'arresto di Di Girolamo. Il presidente della Camera è un caso inquietante. Tanto perché ci si concentra su Fini? Perché, scrive il Corriere della Sera, ci sono molti politici intercettati e anche citati, e in un colloquio viene citato anche Fini. Il colloquio, parlano sempre questo che viene definito ieri imprenditore, oggi da qualcuno faccendiere, questo Mokbel, uomo anche legato ad ambienti dell'estrema destra, un imprenditore legato agli estremi esponenti dell'ultradestra romana, che avrebbe architettato attraverso i voti anche gestiti dall''ndrangheta l'elezione di Di Girolamo. Questo Mokbel parla con Pugliese, appunto il presunto boss dell''ndrangheta, e dice sostanzialmente che cosa? Franco Pugliese, ecco, parla con il neosenatore, poi chiama Gennaro Mokbel, questo dominus dell'operazione, si lamenta di non essere stato invitato, informato della vittoria, e poi aggiunge che Di Girolamo sarebbe stato chiamato dal leader di AN. Mo ha chiamato Fini stamattina. Questo, insomma, sarebbe stato convocato da Fini Di Girolamo. Questo almeno dicono Mokbel e questo Franco Pugliese in questa intercettazione. Tanto che Fini dice, dopo aver detto è un caso inquietante, aggiunge: francamente non ricordo nemmeno di averlo conosciuto Di Girolamo. Questo è il suo primo commento sentito da Francesco Verderami. Vai a capire poi se l'ho visto. Mi pare però di poter escludere a priori di averlo convocato. Sorride anche Fini a leggere, diciamo, le intercettazioni che lo riguardano. Alla prima occasione pubblica dirò che se fossi senatore voterei per l'autorizzazione all'arresto. Considerato uno dei capi di questo sodalizio Di Girolamo, ovviamente ci sono anche qui vagonate di intercettazioni, intera pagina 6, il boss chiamò il politico: amico, non ho dormito per te. Ovviamente non ho dormito perché hai vinto le elezioni, anche se si parla anche di compravendita di voti, è stato eletto all'estero Di Girolamo, compravendita di voti, il viaggio in Turchia dove sarebbero entrati alcuni faccendieri per prendere schede bianche poi da compilare col nome Di Girolamo. C'è anche tutto un filone legato al coinvolgimento, appunto, come detto, di ambienti dell'ultradestra romana. C'è anche qualcosa che va a sfiorare il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, perché una delle persone coinvolte in tutto questo è Stefano Andrini. Stefano Andrini, che ricorda oggi il Messaggero con Nino Cirillo a pagina 5, è un uomo che ha un passato sicuramente di giovinezza perlomeno violenta. Per esempio il 10 giugno 89 a colpi di spranga davanti al cinema Capranica ridusse in fin di vita due ragazzi come lui, per quello ha preso una condanna a 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Erano gli anni anche, insomma, delle contestazioni e delle violenze anche di piazza. Ebbene, che è successo? Che di recente, tra le polemiche numerose, era stato messo da Gianni Alemanno, dal Comune di Roma, a capo dell'amministratore delegato della Servizi Ambientali SRL dell'AMA Servizi il 31 agosto scorso, con polemiche per l'appunto. Ora si scopre che Andrini avrebbe in qualche modo, che cosa, organizzato quella falsa residenza all'estero a Bruxelles per fare eleggere il senatore Di Girolamo, che come detto è stato eletto all'estero, ma in realtà avrebbe falsificato la residenza mettendo un appoggio di fortuna in un appartamento di Bruxelles, dove si accertò che non avrebbe mai potuto vivere lì perché avrebbe dovuto dormire su un divano letto. Insomma, una vicenda un po' controversa per la quale Di Girolamo era già stato accusato e per la quale c'era stata già una richiesta di arresto respinta in quel caso dal Senato. Ora siamo alla seconda richiesta di arresto, ma rispunta anche quella vicenda lì. Stefano Andrini ieri si è dimesso immediatamente, con Alemanno che lo ha ringraziato per il senso di responsabilità istituzionale, ma certo anche per Repubblica nell'indagine spunta la pista nera di Girolamo salvato da una frangia di AN. Salvato quando? Salvato nella prima inchiesta, quella in cui appunto era stato accusato di aver falsificato la residenza all'estero a Bruxelles per essere eletto. E secondo questa ricostruzione sarebbe stato appoggiato appunto da Stefano Andrini, da altri esponenti di allora di AN o comunque della destra, perché secondo l'accusa era un uomo in qualche modo legato a loro. Insomma, è tutta una vicenda molto intrecciata. Io voglio dire che in prima pagina di Repubblica c'è un intervento breve, per la verità, di Roberto Saviano, sono una trentina di righe. Ribellarsi allo scandalo, scrive l'autore di Gomorra, i giudici dicono che l'Ndrangheta è entrata in Parlamento, un'affermazione terribile. Proviamo a fermarci un momento e cerchiamo di capire cosa vuol dire. Significa che il potere mafioso ha messo piede direttamente nel luogo più importante e delicato dello Stato, quello dove il popolo si fa sovrano e dove la democrazia si realizza. E conclude queste poche righe Saviano: la vera emergenza non è questa, l'emergenza è che tutto questo passi come l'ennesimo scandalo silenzioso al quale siamo rassegnati. L'emergenza è che tutto ciò non faccia sentire nel cuore, nello stomaco, nella mente di ogni italiano un'indignazione che lo porti a ribellarsi e a dire ora basta. Questo è l'appello, ribellarsi allo scandalo, di Roberto Saviano. Intanto Berlusconi ieri è intervenuto duramente contro le intercettazioni barbare da stato di polizia. Questo è anche il tema del nostro sondaggio. Che ne pensate? Ce ne sono troppe secondo voi? C'è anche un intervento a questo proposito in prima pagina della Stampa di Luca Ricolfi, il sociologo, che dice: intercettare a patto di razionalizzare. Fa una lunga premessa Ricolfi a dire: sicuramente le intercettazioni sono aumentate negli ultimi anni. Nel 2001 i bersagli intercettati erano 32.000 e da allora il numero è sempre aumentato a un ritmo del 23% all'anno. E allora ecco la proposta di Ricolfi. Propongo questa soluzione semplice. La politica si astiene nel modificare i criteri di autorizzazione e lascia le cose esattamente così, quindi nessuna legge. Nello stesso tempo, però, la magistratura si prende il diritto di riportare gradualmente il numero totale delle intercettazioni a un livello più ragionevole. Come? Per esempio fissando uno stock di intercettazioni nazionale e affidando al Consiglio Superiore della Magistratura o a un organo indipendente il compito di ripartire tale stock tra i 29 distretti giudiziari, in funzione del numero e del tipo di reati tipici di ciascuno di essi. Cioè, come dire, assegniamo un tetto massimo di intercettazioni, le razionalizziamo, le distribuiamo per stock in base alle distretti di Corte d'Appello d'Italia e quelle intercettazioni vanno fatte, non più. A me sembra una proposta un po' difficile, francamente, perché che si fa? Uno supera lo stock e che fa? Smette di intercettare magari per un reato quando sei a metà di una indagine? Non lo so, però questa è la proposta di Luca Ricolfi, cioè nessuna legge, però limitiamo le intercettazioni con un numero fisso da ripartire poi alle procure italiane. Google, 3 condanne per il video shock. È una sentenza che ha fatto molto discutere, l'abbiamo sentita anche in GR24. La sentenza che ha condannato è una sentenza del Tribunale Civile di Milano, è la prima assolutamente di questo stampo in tutto il mondo. È stato condannato Google perché ha messo in video sostanzialmente ha omesso di rispettare la legge sulla privacy per la vicenda di non aver evitato nel 2006 che finisse su internet il filmato di un bambino autistico vessato dai suoi compagni di scuola. Ovviamente dagli Stati Uniti accusano, è una grave minaccia alla libertà per il web in Italia. Vi sottolineo tra l'altro che sul Sole 24 Ore ci sono due commenti, chi è a favore e chi è contro. Daniele Bellasio scrive perché sì in prima pagina e ci si chiede, insomma, è uno spazio libero la rete internet, ma esistono spazi assolutamente liberi se la mia libertà finisce dove inizia quella del prossimo? È un'autostrada, ma esistono autostrade senza regole, senza incidenti? Cos'è poi allora internet? È un enorme, colossale, policefalo e multidirezionale editore, ma esistono editori che possono pubblicare tutto senza porsi il problema dell'effetto, in certi casi dell'eventuale danno ingiusto? E insomma, il tema è questo, spazio libero sì, ma dove, fino a dove può arrivare questa libertà? Per Daniele Bellasio che dice sì, favorevole a questa sentenza, contrario invece, perché no, così la rete perde tutte le sue idee, è il commento di Alessandro Plateroti. Li trovate in prima pagina del Sole 24 Ore, ma insomma il dibattito è aperto. Oh, a me ha molto colpito e colpiscono molto le foto di quello che vediamo provenire dal fiume Lambro in Lombardia e anche dal fiume Po, perché poi il fiume Lambro confluisce nel fiume che passa da Milano, insomma, e va poi a sud e confluisce appunto nel fiume Po. Cosa è successo? È successo che c'è stato uno sversamento nei dintorni di Monza da un'ex raffineria. Ci sono delle cisterne che hanno perso, non si sa bene ancora quanto, ma certo del materiale che è finito nel fiume. Il gasolio dal Lambro al mare, la regione stato di emergenza. Sul Corriere della Sera ci sono delle foto, beh, sinceramente molto brutte, insomma, di questa macchia nera che si va estendendo, un disastro ambientale enorme, questo per l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Una quantità di gasolio e olio combustibile uscita dalle cisterne non ancora stimata, si va dai 2500 metri cubi, dalle stime più prudenziali, ai 10.000 metri cubi dalle previsioni più pessimistiche. Certo è che i lavori di vent'anni di bonifica del Lambro sono andati perduti in una notte. Ci si chiede ora se anche la falda, per esempio, acquifera nei dintorni di Monza sia stata colpita. A temere il peggio sono i contadini dell'Odigiano. C'è la Coldiretti che dice state tranquilli, nessun problema per i cibi, per le agricolture. C'è un intervento sul Corriere della Sera di Ermanno Olmi, il sentiero delle papere e il mio fiume profanato, perché il regista Olmi ricorda le riprese lungo le rive del Lambro. Insomma, è una brutta storia, è una brutta storia che speriamo in qualche modo venga arginata. Sono al lavoro la protezione civile con le barriere antipetrolio che vengono messe alle due sponde del Lambro a 10 km dalla Lombarda Petroli, dove appunto c'è stato questo sversamento. Sta di fatto che la situazione non è delle più facili. Siamo alle segnalazioni conclusive. Voglio segnalare due cose. 4 milioni di case fantasma. La Stampa, alloggi vuoti nell'Italia dell'emergenza abitativa. È un convegno, ci sarà domani a l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ha stabilito che ci sono almeno 3 milioni di persone che abitano, inquilini, ma non si vedono, stranieri che pagano in contanti e poi smammano in fretta, affitti, contratti di affitti o in nero, contratti di affitti di 10-15 giorni al massimo un mese. Insomma, ci sono 4 milioni di case o di inquilini fantasma, tanto che l'ANCI ha proposto, ora facciamo qualcosa, perché ci sono 600.000 italiani in attesa di una casa e ci sono queste situazioni di 4 milioni di case fantasma o di inquilini che non si capisce bene chi siano. L'appello dei sindaci al governo, vogliamo gli sgravi fiscali. L'ultima citazione è dalla Gazzetta dello Sport. Ruggito Inter, c'è un cambiasso che ha fatto un gol spettacolare per il 2-1 ieri dell'Inter sul Chelsea in prima pagina, ma voglio citare Gene Gnocchi, giusto per sorridere. Adriano torna in Italia, se lo contendono la Juve, il Milan e l'Heineken. Questo è Gene Gnocchi oggi.